vengo a dirti, yo vengo a dirti, oh mio Salvatore, que yo te amo, que yo te amo con tutto el mio cuore. Yo vengo a dirti, yo vengo a dirti tutta la verità. Ti voglio bene, Signore, ti amo, Signore, con tutto il mio cuore. Io voglio cantare di gioia per te. E piangere ancora di felicità. Io vengo a dirti tutta la verità. Ti voglio bene, Signore, ti amo, Signore, con tutto il mio cuore. Io vengo a dirti, oh mio Salvatore, che io ti amo con tutto il mio cuore. Io vengo a dirti tutta la verità. Ti voglio bene, Signore, ti amo, Signore, con tutto il mio cuore. Io voglio cantare di gioia per te. E piangere ancora di felicità. Io vengo a dirti tutta la verità. Ti voglio bene, Signore, ti amo, Signore, con tutto il mio cuore. Ti voglio bene, Signore, ti amo, Signore, con tutto il mio cuore.